sceso sulla spiaggia tra le risa e i canti d'estate. L'aria fresca di questo settembre preannuncia l'autunno imminente. Il cielo è terso, ma che sera d'incanto, mentre gli occhi si perdono nella quiete del mare, le mani si muovono nella morbida sabbia, è il tempo vorrei poter fermare. Tu sei qui. Guardi in questo sogno d'estate, tu così piena di fascino e quei modi gentili, sai ti ho aspettata nel mio immaginario e mai avrei creduto di trovarti davvero. E pensa che avevo ormai abbandonato l'idea di averti con me, pensa riflessi della luce sul mare, ed ora la tua immagine si risolve lentamente e all'orizzonte rimane solo un sogno. Ciò che conta è vivere l'istante, pensando a quello che sarà. Ma che bello sentirsi un po' importante nel ricordo di quel che è stato già. Resterò a guardare riflessi della luce sul mare, ed ora la tua immagine si risolve lentamente e all'orizzonte rimane solo un sogno. A guardare ancora un po' i riflessi della luce sul mare, ed ora la tua immagine si risolve lentamente e all'orizzonte rimane solo un sogno.